Quando la musica finisce, raccogli la pistola e cerca di sparare. Cerca. Poco attento, vecchio. mani in alto, bruschettini. Stava quasi per farmi paura. Mani in alto, bruschettini. Ecco, ehi, questa sera là. Ehi, sceriffo. Sceriffo, questa sera non si scampa le bruschette. Deponi le armi, sceriffo. Benvenuti, ben trovati, bentornati dopo una settimana di assenza. Che succede? Niente. Niente. Una settimana di assenza e siamo di nuovo qui dagli studi di Radio Wombat con l'Accademia della Brusca, la XN puntata del 2019, perché manco teniamo il conto, tutti gli altri sono bravi. Infatti, ma facevano lo stesso ragionamento l'altro giorno alla fuga del gatto. Dicendo per l'appunto che anche loro non hanno mai contato le puntate e quindi si andavano molto a braccio. Nemmeno noi l'abbiamo mai fatto e non avremo modo di farlo. Quindi siamo alla chiesesima puntata. Bene. Puntata. Tra l'altro, puntata della fuga del gatto meravigliosa. Se avete sentito la prima delle hit classiche abusate nella vita pop, questa è la seconda parte, è un capolavoro. Più che altro tutto abbastanza riconoscibile. Dice, ah, ma quello esatto. È! Ma quello... soprattutto, cosa interessante, non gliel'ho ancora detto ai responsabili, ma in realtà il pezzo, anche se abusato e che se senti in giro dici, vabbè, non ne posso più, in quel contenitore, in quella scatola, riacquista il suo valore. E, non so... È come vedere che bel ragionamento questo. Sì, la cosa nel posto giusto che le dà la giusta dignità e tu, utente, te la riascolti veramente, cioè non la senti come fosse una pubblicità. Decontestualizzato, meglio ricontestualizzato. Ricontestualizzato, esatto. E quindi è piacevole. E lì puoi davvero riascoltare il cigno e tutto il popò di roba che ci hanno sempre propinato. Rigodendosele un pochino. L'Accademia della Brusca, la trasmissione che parla bene delle altre trasmissioni. Yeah! Di tutte, sempre e comunque. Ovvio. Tranne che di 8 Hz. No, perché sta sempre lì sulla porta. Sempre ci aspetta. Qua, sul ciglio della porta. Infatti. Sull'uscio. Posa guarda. Il fiasco. Ma come mai abbiamo aperto con tutte queste pistolettate, pistoleri, sbirri, quest'ansia da controllo e da aggressione? Ma che è? Un tripudio televisivo di nonne, perché e di bellissimi film anche. Perché questa è una puntata nuova su un tema altrettanto nuovo, che è quello della legittima difesa. Quindi... ovviamente non poteva mancare il caro ispettore Derrick. Come facevi, ma farne senso. È bellissimo, la bellissima intro di Per qualche dollaro in più. Quando la musica finisce. Ah, stupendo. Sì, questo ce lo meritavamo un pochino. Sì. Quindi è tutta una questione di pistoleri e pistolettate. E chi pistoletta prima dell'altro. Guarda. In realtà questa puntata no. Ti meriti anche questo sottofondo. Un sottofondo come non ce ne sono mai stati, esatto, nella storia di questa trasmissione. Il settimo giorno Dio si riposò e Chuck Norris distrusse il lavoro con un calcio rotante. Eccolo, ovviamente. E per questa è la collezione di tutte le sigle delle nove stagioni di Walker Texas Ranger. E io te le propinerò tutte, come una dietro l'altra. Ma senti com'è, che bel mix anche, proprio davvero omogeneo. Sì. Fatto benino, bravi. E quindi ti lascerò questo come sottofondo. Ok. Iniziamo, nel senso, è o non è una trasmissione che parla di linguistica, vocabolario, filologia, glottologia e quant'altro? E allora, E soprattutto quant'altro. Trash, e tanta musica trash. Tanto trash in generale. Che musica è musica anche questa, nel senso, a livello compositivo, una melodia, dai, una sinfonia, però insomma. Allora, partiamo con... deliziamoci con un po' di vocabulary. Se anche voi siete nei guai e il vostro avvocato è sempre al bar, potete contare sull'Accademia della Brusca con i quattro requisiti dell'azione difensiva. Sono quattro, abbiamo, anzi, in realtà sono noi di ne più. Abbiamo aggiunto, no, beh, ne abbiamo aggiunto uno perché ci serviva, anzi codex, due perché poi ci serviva per ampliare l'argomento. Però i quattro di base sono i primi quattro. Costretto, necessità, necessità proporzionata e incolumità, ovvero quattro requisiti, no? Dell'azione difensiva. Costretto è a dire che il soggetto agente, innanzitutto, non deve, sentite un po', avere cagionato lo stato di pericolo e cagionato, inoltre, che deve trovarsi nell'alternativa tra subire il pericolo di offesa al diritto proprio o d'altrui e l'attuazione della reazione difensiva. Non ho capito. Questo è. Vediamoli prima una alla volta. Vediamo tutta questa terminologia e poi rileggendo l'articolo ci renderemo riusciremo conto a capire di come interpretare l'articolo precedente alla modifica che è passata oggi. Questo slag guitars. Io intanto in the eyes of a ranger. The unsuspecting stranger had better know the truth. Behind Malabar. Because the eyes of the ranger are upon you. Che ansia, ragazzi. Era vera, una vera minaccia. Io, ragazzi, allora, col mio progettino, con chi sappiamo noi, io faccio una cover. È bellissima, non si fa per forza. Necessità, cioè quando essa sia l'unica idonea a respingere l'aggressione. Fino a qui tutto bene. Proporzionata, cioè il bene giuridico sacrificato dalla reazione difensiva deve essere lo stesso livello di quello che si intende tutelare. E anche qui ci siamo. Quindi, cioè, se rubo una mela non posso essere presa a pallettoni, in sostanza. Esatto, se rubo una mela la mia probabilmente vita vale più di una pera e di un litro di benzina. A meno che gli occhi di un ranger non siano su di me. Infine, e poi abbiamo l'incolumità. Significati di altre due parole che spesso creano confusione nell'interpretazione della legge. Qui li vediamo più dal punto di vista vero e proprio della lingua italiana. Allora, infatti, perché un'analisi a livello anche, come dire, di etimologica ci può aiutare. Ovvero, l'incolumità deriva dal latino incolumitas, incolumitatis, e sta ad indicare il fatto d'essere o rimanere incolume e illeso. Quindi integrità fisica di una persona, in quanto vi potrebbe essere pericolo che tale, potrebbe essere un pericolo per cui tale integrità potrebbe venire lesa, oppure il ricevere un danno da qualche cosa, no? Quindi attentare all'incolumità di qualcuno, garantire l'incolumità degli operai in un lavoro rischioso, facendoli lavorare in condizioni tali che non vi sia pericolo di infortuni. Qui hanno scritto infortuni con l'accento circonflesso per raggruppare il plurale di due i. In diritto penale, invece, il termine incolumità indica delitti contro, per esempio, l'incolumità pubblica, quindi quelli che attentano alla vita o all'integrità fisica delle persone, come provocare incendi, inondazioni, disastri ferroviari, eccetera. E poi anche un senso figurato, l'incolumità dello Stato, delle istituzioni, della proprietà privata. Ma che bella carrellata! Hai capito? Come c'è ci di tutto si un po'. Sente bene. Finalmente arriviamo agli ultimi due, diciamo, requisiti. Quattro sono quelli, diciamo, istituzionalmente, legalmente, come dire, manifestati e utilizzati nel campo del diritto. E poi invece questi due ce li ha messi la Nenia. Abbiamo la desistenza, sostantivo femminile. Cessazione volontaria dal proseguire un'azione intrapresa. Desistenza dall'azione criminosa. Abbiamo la desistenza da querela, la remissione e la desistenza addirittura terapeutica, e questo è un altro campo, cioè l'interruzione da parte del medico di terapie considerate inutili o dannose per il paziente, come nel caso dei malati terminali. Tempestiva invece, quindi la nostra azione difensiva tempestiva, che deve essere posta in essere contro un pericolo attuale o quantomeno imminente. Non può attuarsi pertanto né in via preventiva né quando il pericolo sia esaurito o cessato. Questo è quello che troviamo nelle parole dell'articolo 52 del codice penale, detto anche quello della legittima difesa, che come sappiamo in questi giorni sta cambiando, anzi sì, praticamente è ormai già passata, perché il Senato ora lo rimanda semplicemente per correggere un piccolo errore di forma, ma in realtà mancherà una virgola probabilmente, oppure l'ortografia. Sì. Sì, sì, ci sarà, mancherà una F da qualche parte. No, è proporzionata con due Z. Esatto. E quindi, insomma, diciamo che passa. Bene, già questo che noi stiamo leggendo, che è già quello modificato, come sappiamo, 2006, 2014 o 2016 forse, non ricordo. Insomma, è stato modificato diverse volte in questi ultimi vent'anni. Sì, praticamente peggiorandolo, aggravandolo a seconda dei punti di vista. Per me già così è una cosa agghiacciante, perché comunque in qualche modo quello che riportiamo qui probabilmente è già, diciamo, frutto delle interpolazioni del periodo berlusconiano. Sì, sì, ma fino all'ultima del PD di qualche anno fa, forse 3 o 4 anni fa, non... No, io calcolo sempre ad essere ancora nel 2018, ahimè. 5 anni fa probabilmente, sì. L'ultima modifica che ha fatto anche il PD, quindi che non chiacchieri tanto anche questi giorni, perché voglio dire, cioè, le aggiuntine le ha fatte pesanti anche il PD. Vabbè. Ma le avete visti i meme su Zingaretti? Oh no, vabbè. Come penso di essere, come sono nella realtà. Allora, lungi dal body shaming, anche perché sono uguali quei due. Però è molto carino. Sono molto bellini, sì, questi meme. Proviamo a leggere. Un saluto alla mia mamma, che è una grande fan del commissario Montalbano, che per lei è una persona, cioè nel senso proprio, come dire, com'è quella figura retorica, no? Di una parte per il tutto e non solo, no? Il nome nomene nemmeno, proprio l'attore e la raffigurazione corrispondono nella stessa persona, che si chiama commissario di nome e Montalbano di cognome. Capito. Allora, leggiamo. Ripeto, questo è quello non modificato. Ok, quindi quello che... Quello che c'era fino a ieri, diciamo. Esatto. La legittima difesa. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o d'altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia, come abbiamo detto, proporzionata all'offesa. Quindi una mela. Non è punibile chi ha commesso il fatto. Era costretto, c'era la necessità, difendeva un diritto proprio contro un pericolo attuale, quindi non di 2 ore prima o che arriverà fra 2 ore, di un'offesa ingiusta, con però una difesa che sia proporzionata all'offesa. Io non penso che questo abbia bisogno di altra interpretazione. È molto chiaro. E mi sembra già, per il mio punto di vista, già troppo. Questo è stato aggravato, e tant'è. Vediamo che cosa si dice un po' sotto. Allora, nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero violazione di domicilio, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo. Se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumità, i beni, questo è terribile, propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Cosa significa? Che è già così è straricca di possibilità per un pazzo psicopatico che già ha un'arma in casa di uscire e ammazzare qualcuno che nel suo giardino sta rubando facendo, il nano. Che so, sì. Ruba una foto perché gli piace il nano. Ma che sia la cornice d'oro o le mele dall'albero, voglio dire. Cioè, già qui si poteva fare tutto. Non c'è scritto che prima non si poteva fare. Esatto. Cioè, basta dichiarare l'incolumità, Non lo so davvero che cosa bisogna cambiare, ma andiamo avanti perché c'è ancora un... Poi anche questa cosa in cui non vi sia desistenza. Ma soprattutto, sì, anche infatti, certo, ma soprattutto poi... Che è molto molto soggettiva questa cosa, no? Nel senso, no, ma lui non smetteva. Come facciamo a testimoniare? Se è morto. No, vabbè. Allora, i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un lato dall'insorgenza del pericolo, generalmente determinato da un'aggressione ingiusta, e da una reazione difensiva. L'aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, attenzione, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui, personale o patrimoniale, tutelato dalla legge. La reazione legittima deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e deve sussistere comunque una proporzione tra difesa e offesa. Questa forse è la parte più sensata della proporzione. Sì, infatti è stata quella che è cambiata. Non troppo. è stato modificata. Che se mi ammazzi il cognato... È stata modificata la percezione, perché è stato aggiunto che tu puoi sempre difenderti. Sì. Non c'è più proporzione tra il danno e che arrechi e quello che ti viene arrecato. Esatto. E insomma, già questo secondo me penso che veramente... Questo è come aprire le gabbie. Faccia scattare quella scintilla nel disperato che pensa ci sia davvero questo problema. Ma io adesso ho bisogno di ascoltare qualcosa, perché queste... Sì. Queste cose mi appesantiscono. Queste, sì, la legge, il diritto, il Far West, Salvini, sono tutte cose che un pochino mi appesantiscono, quindi ho bisogno di farvi ascoltare qualcosa di musico. Va musicale. Bene. Dai cavalli a dondolo, bang bang, io sparo a te, bang bang, tu spari a me, bang bang, e vincerà, bang bang, chi al cuore colpirà. Ci siamo innamorati, correvamo per i prati, tu scherzavi insieme a me, bang bang, per ridere, bang bang, sparavi a me, bang bang, e vincerà, bang bang, chi al cuore colpirà. Stringe il cuor, bang bang, rivela. Violini Zigani contro Salvini. Mi piaceva di più farvi sentire l'opzione italiana, perché il nazionalismo no, qui... perché siamo una radio, un pezzo su tre deve essere italiano. Ah, giusto, messi certo. Due, questo è il terzo. Voglio proprio vedere come si va avanti, ma giusto noi con la merda che mettiamo possiamo andare avanti in radio. Noi stiamo osservando disposizione, no ragazzi. La prossima volta ci canto sopra in qualsiasi finlandesi. Altra lingua. Blam blam. Grim, grum, blum. Allora, schiariamoci la voce, ricalibriamo l'ugola. Allora, per dire che... Anzi, prima vi leggiamo un estratto super numerico. Sì, sì. Dalla linguistica al giornalismo, insomma, d'altronde ci sta, insomma. Roma, secondo numero dei reati ancora in calo in Italia, quindi... Articolo piuttosto attuale, risale alla fine dell'estate del 2018. Dal 1 agosto 2017 al 31 luglio 2018, secondo il dossier presentato dal Viminale in coincidenza della consueta conferenza stampa di Ferragosto, i delitti consumati sono stati 2.240.210, il 9,5% in meno rispetto ai 12 mesi precedenti, quando erano stati 2.453.872. Da un anno all'altro diminuiscono gli omicidi, da 317 a 319, le rapine, da 31.904 a 28.390, quindi il 12,3% in meno, e i furti, che sono il 9,5% in meno. Furti si viaggia sempre comunque su 1.300.000 a 1.189.000. Quasi il 10% in meno, esatto. Comunque. In particolare, tra gli omicidi diminuiscono anche quelli attribuibili alla criminalità organizzata. Ma come mai? Hai visto? Da 48 a 30. Quindi 48 in un totale, diciamo, registrato tra agosto 2016 e luglio 2017, quindi più o meno 11-12 mesi, a 30 che... diciamo corrispondono a quella forbice dell'anno successivo tra agosto e luglio del 2017 e 2018. Tra l'agosto 2017 e luglio 2018 però le donne sono state vittime del 37,6% dei 319 omicidi volontari, come lo diciamo anche in vista dello sciopero di domani, certo. Commessi in Italia ed in particolare del 68,7% dei 134 omicidi in ambito familiare o affettivo. Capito? Quindi non c'è una vera e propria emergenza da quello che cerco di percepire. Anzi, da questi numeri. Non c'è un'emergenza per quanto riguarda la legge della legittima difesa, ma non bisognerebbe invece creare un'altra emergenza? Perché non lo so, qui i numeri proprio non mi tornano. Più che altro non mi tornano con i provvedimenti che vengono presi. Le interrogazioni, le conferenze stampa, le interrogazioni del Viminale, per cui insomma penso siano fonti perlomeno collegate ai sistemi di polizia e di appunto monitoraggio, no, del crimine, tra virgolette. Per cui... come si diceva prima, mentre c'era la canzone di Dalida, si parlava di come Salvini un paio di settimane fa, la settimana scorsa, si è andato a Piacenza a trovare questo tipo. L'imprenditore che aveva sparato sul petto dall'alto al basso, quindi il tipo era per terra dopo che era stato pestato insieme a un altro suo collega. Cioè il padrone dell'impresa insieme a un suo, penso... sottoposto, perché a questo punto devi usare questa terminologia, l'hanno prima pestato tipo a sangue con la testa sui sassi e poi gli hanno sparato sul petto, capito? Quindi insomma, far west. La faccia della legittima difesa. Ma infatti non ha senso che si prenda, però cioè che abbia usato questo caso proprio per poi tirare sul polverone della legittima difesa in questi giorni, che comunque era una situazione abbastanza calda, anche perché davvero i casi in cui si è dovuto discutere in tribunale di legittima difesa pare siano meno di 10 in 10 anni, e sono cioè, i soliti, che poi hanno discusso in tutti condizioni compromettenti, esatto, in tutti i telegiornali, quello del 2003 il tabaccaio, il benzinaio del 2015. Lo sapete, io sono la dovrei dire questa cosa, ma il tabaccaio lo sapete che questa vicenda è venuta nel mio paese. Ah, io, guarda, sì. Vedi, poi c'era quell'altro del ristorante, insomma, ma sono 5 in tutto, niente di 5-6. E quindi non si può parlare di emergenza perché, voglio dire, sono state uccise 10 persone per razzismo soltanto in 2 anni. Ne sono poco state più, uccise 4, forse più, nella stessa città nell'arco di 7 anni, per dire. Capito, per cui le medie non tornano. Parliamo ovviamente di Firenze, dei fatti di Piazza d'Almazza, dei Ponte di Spucci. Per chiaro, cui. Solo qui a Firenze, figuriamoci. E quindi vabbè, alla faccia dell'emergenza. Ma visto che siamo nella scia delle donne, ricordiamo che domani c'è lo sciopero generale di tutto il modo in cui si può dire e mettere il genere. Dovremmo fare una puntata sulla pronuncia. Per me è tutt's. Voce elettronica. Io metterei la Z. Tutt's. E boh, ricordiamo che magari è la cosa più carina, più divertente, più colorata, che probabilmente, se posso, vado lì. Mm-hmm. Parto da lì alle 14 in Piazza Dalmazia, parte la squirt, il corteo squirt, per poi unirsi a tutto lo sciopero generale, insomma, però ecco, sapevatelo. It's going to be fun. Yeah. E che dire altro? Appunto, it's going to be fun, quindi mettiamo qualcosa di... Facciamocelo raccontare prima da lui. Eccolo. Avete visto? Noi uomini lottiamo, ma alla fine vincono sempre le donne. Che ci vuoi fare? Vabbè, era così giusto per folklore, dai, ci stava. Ma non sono soddisfatta, voglio sentire qualcos'altro. Ah sì, qualcosa di veramente divertente. Sì. Perché, ma questo sai, era proprio perché parlando della legge sulla legittima difesa, sappiamo, no, che oltre a far sì che le persone si armino e facciano dei deliri allucinanti, che voglio dire, ne bastavano meno, però l'ottica è quella di poter fare un po' come cazzo gli pare, ognuno a casa loro. Perché... Ti ricorda qualcosa? Ma sei sicura? Ma se cosa ti ricorderà mai? Ma questa cosa. Mi raccomando, sta arrivando, non uscite da nessuna stanza, che è pericoloso quello che si mangia. Andate via, non state qua, richiudetevi. Via, via, non state qua, togliete tutto, anche lo zucchero, quello si ciuccia tutto, state attenti, Via, non uscite per nessun motivo. Questo è pericoloso. Non uscite per nessun motivo. Piano, non avvicinatevi alle balaustre, quello che se magna le dita. Manteniamo la calma, no? Piano! Stiamo calmi, stiamo usando una cosa. No, piano, lontani, oh. State calmi. Lontani. Mantenete la calma, seduti, non urlate. Calmi, stiamo calmi, diamo un attimo di pubblicità, adesso normalizziamo la situazione, un secondo solo, eh. Mi raccomando, non tirate i cracker. Ma non dire così. No, scusate. Non applaudite. Potrebbe innervosirsi, scusate. Allora, perché stiamo facendo questa cosa qui questa sera? È molto semplice, molto chiaro. A quest'uomo... Ok, lo mettiamo. Abbiamo sbagliato altro. Però era troppo bello, allora siamo andati avanti un po'. Perché il vero audio che doveva partire è questo. Sempre inerente, chiaramente. È però. Ovvio. Vogliamo liberarlo da questa ingiustizia. Dov'è? No, sì. Ok, ci siamo. Il bello della diretta. Situazione cena elegante. Candele, consommé. Un signore distinto. Facciamo un po' come cazzo ci pare. Questa era una cosa meravigliosa dell'ottavo nano, era lo spot elettorale della Casa delle Libertà. Chissà come mai c'è stata confusione in questo file. Perché quello che si alza al tavolo è Umberto Bossi. Perché infatti... vabbè, o comunque era guzzante nei panni, sì, diciamo, sì, sì, era, sì, era lui, sì, sì, era lui che faceva ci Bossi. Siamo confuse, ma vabbè, insomma, però è pur sempre bello, andatevelo a vedere, non male. E quindi insomma, e 20 quindi, e 43 allora possiamo, sì. Ma io prima di parlare di questa cosa, sì, io questa cosa per adesso non so cosa vuoi fare. Proviamo a iniziare un nuovo argomento oppure vuoi annunciare il super party? Io annuncerei il super party perché ragazzi, ho capito e si parla di legittima difesa, ma voi questo fine ma settimana difendiamoci noi. Vi dovrete difendere dall'uomo più aggressivo che mai, con voglia di fare una festa. Difendiamoci difendendo. Sì, sì, sì, sì. Di sì. Cosa stiamo questo parlando? Questo è fine settimana tutto festa. Ragazzi, noi allora, vi aspettiamo. Prima eh? Di tutto andate subito su wombat.noblogs.org, dove probabilmente già siete, e spippolate nella home e troverete subito il post con le informazioni della super festa Wombat. Di cosa si tratta? Della super serata al CSA Next Emerson in via di Bellagio numero esatto. 15, zona Castello, dove potrete venire dalle 10:30-11 in poi significa però alle 4 tutti a nanna, chiaramente. E vabbè. Allora, è importante una cosa, la dovete scrivere. Scrivetevela sulla mano se siete dei tatuatori, scrivetela sulla penna dove volete. Ma dovete parcheggiare lontano da via di Bellagio, quindi dovete parcheggiare nelle vie limitrofe o nel parcheggio della stazione di Castello, che è tanto comodo, perché ci hanno avvisato di, insomma, di mantenere un po' di traffico agevole fuori, perché ci sono stati dei problemi in passato, ho visto, quindi... preferiscono che si avvisi tutta la popolazione, che la grande folla che verrà alla festa, di parcheggiare a Modino e non su via di Bellagio. Detto ciò, la festa inizia, come abbiamo detto, alle 10:30, c'è esatto. cioè la serata della Romola, del sound. Quindi Romola, che sound porta reg. Un sound reg anche dalla Puglia, insomma, tutte queste cose molto, molto così. Non le so definire altrimenti, perché non è il mio genere musicale, quindi neanche non so mai come parlarne, però è tutta brava gente, ecco, mettiamo così. Bravi uaglioni. Sono tutti bravi uaglioni, molto simpatici, e quindi sarà una bella serata. Il benefit chiaramente andrà a sostenere le spese della radio, perché come tutti sapete siamo una radio autogestita che si finanzia da sola, e quindi quel pochino di ingresso si cercherà di metterlo in ballo per comprare quello che serve per la radio, sostenere le spese, eccetera, eccetera. Quindi venite con qualche soldo in più, vi comprate anche una bella maglietta e anche una bella borsina. Gli adesivi sono gratis e per voi sì. faremo panini, torte. Sì, è vero. E diciamo la parte su. Più bella della serata, perché è vero che c'è la Romola nella sala grande, ma quando nella vi sala stancate piccina, di tutto quel reg, di quel della folla, di stare in piedi. A parte questo reggaeton, vabbè, un'altra cosa. No, quello è peggio. Non so cosa è peggio, non lo so. No, reggaeton è peggio, dai. Cioè, sì, forse. Più tamampo. Okay. Vabbè. Ok. E quindi ci troverete in una salettina vicina alla sala concerti, suppongo. E vicina al bar. Esatto. E di fronte al bar. Quando vi venite a dissetare, passate a salutarci. Vi aspettiamo. Ci dalle sarà 22:30. Sì, ci sarà una DJ set della radio, quindi a turno tutti i DJ e tutte le trasmissioni della radio metteranno via via i loro pezzi. Una cernita di pezzi più soft, più da situazione salotto. Si mangeranno i panini, si leggeranno i nuovi palinsesti stampati, che verranno bellissimi. Declameremo sì. come fosse una poesia di Tristan Zara, un sì. componimento di sì, Tristan Zara. Sì, sì. Leggeremo i nuovi palinsestrini. E quindi questo è l'invito ufficiale di questo fine settimana, non mancate. Se poi volete anche rimanere fino a tardi a darci una mano a smontare, si fa due chiacchiere, insomma, siete tutti benvenuti. Benvenuto. E ok, finisco di elencare i social Wombat: twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze, la mail come sempre posta wombat@insiberia.net. Abbiamo la pagina del sito con il Wombat nel mondo, continuate a mandarci le bellissime foto dei bellissimi adesivi che state scovando in giro per tutto il mondo, che è enorme, ce ne saranno miliardi. Portateci ancora delle foto bellissime e noi le pubblicheremo e poi faremo il premio della foto più bella, scovata dal caccia wombat più furbo. Ricchi e premi più lesto. E così io. E per voi ora? E per voi ora a questo punto vi facciamo sentire un po' di musica. Sì. Anche e poi se va con l'ultimo argomento, ma tanto è una cosa veloce ed è perfetta per questo. Io non lo so, a questo punto metterei qualcosa di serio. Sì. Che ne dici? Sì, sì, questo è perfetto per quello che andremo a introdurre dopo. Bene. Buon ascolto. Parte ma con K. Ecco, ce l'avamo persa. Sì, chiacchieravamo di quanto era bello questo pezzo e di quanto abbiamo scambiato tutti i microfoni. Cioè, non noi, però, ma va benissimo. Chiedevo anche se... Ma dice trick e track. Sì, fa prick e prack. Un po' come Bracardi, insomma. Sì, sì, genio. Bene. In galera. In galera, ratatata, per lo vabbè. Allora, tanto insomma... Sappiamo già. L'andazzo è quello. Ma poi hai visto anche Forza Italia cosa ha fatto? Ha messo gli striscioni, tipo, finalmente un'azione di destra. Scusa, ma perché finora che cosa avete fatto voi? Cioè, vogliamo parlarne un attimo. Vabbè, eravamo così, un confettino che ti davo all'ultimo, alla fine della serata. Che sulla parete di fronte alla mia è sceso un po' di intanaco e ha fatto la forma dell'Italia, praticamente. Questa cosa è inquietante, ragazzi. Aiuto, aiuto. Aiuto, sì, è vero. Però manca il Molise. Un po' strungarica. Un po' strungarica. Manca proprio il Molise. Sì. Anche la Basilicata è un po' incerta. È ancora un po' austro-ungarica, un po' stato della Chiesa. Però si sta formando. Sì, la Sardegna sì. C'è, ovviamente. Sì, sì, è un po' strettina, ma c'è. C'è una parte, sì. Va bene, quindi stai iniziando a fare uso di droghe e non mi dici niente. Ma se io vi dico, you have the right to remain silent. Anything you say and will be used against you in a court of law. You have the right to have an attorney present during questioning. You cannot afford an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Che cos'è questo? Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà essere usata contro di lei. In tribunale ha diritto a un avvocato durante l'interrogatorio. Se non può permettersi un avvocato, gliene sarà assegnato uno d'ufficio. Quanti telefilm? È tutto quello che ti rimane in testa dai telefilm americani. Esatto, esatto. Ma lo sapete come si chiama questa cosa? Si chiama Miranda o Miranda Warning. In italiano, diritti Miranda. Che è l'avviso dato negli Stati Uniti dalla polizia ai sospettati di reato sotto custodia, quindi la police custody, o sotto custodia cautelare, custodial situation. Prima che gli siano rivolte le relative domande in merito al compimento di un reato, insomma. E perché con la nostra puntata sulla legittima difesa? Perché c'è questo formulario molto molto molto particolare che viene utilizzato in cui si parla perlomeno inizialmente di avvocati. Ed è carina la storia, ve la spiego proprio in due minuti, poi vi salutiamo. Allora, questo Miranda Warning venne introdotto a seguito del caso Miranda v. Arizona, v. ovvero Ernesto Arturo Miranda, nato a Mesa in Arizona, residente a Flagstaff, sempre in Arizona, venne arrestato nel 1963 per furto. In seguito confessò lo stupro di una diciottenne avvenuto due giorni prima. Al processo l'accusa usò come prova non solo la sua confessione, ma anche il riconoscimento da parte della vittima. Miranda fu accusato di stupro e rapimento e condannato a un periodo tra i 20 e i 30 anni di carcere per ogni accusa. L'avvocato di ufficio di Miranda, John J.J. Flynn, si appellò alla Corte Suprema dell'Arizona che confermò la sentenza, insistendo molto sul fatto che Miranda non avesse specificatamente chiesto un avvocato. Il caso venne definito il 13 giugno del 66 dalla Corte Suprema, che stabilì che ogni dichiarazione, sia accusatoria sia di scolpa, resa da un accusato preso in custodia dalla polizia in risposta a un interrogatorio, sia utilizzabile durante il processo solo ed esclusivamente nel caso in cui l'accusato sia stato informato del suo diritto di avere un avvocato e di non autoaccusarsi. Io dubito che il Miranda Warning sia un esempio virtuoso di difesa dei diritti dell'accusato. No, no, no, anche perché figuriamoci se si parla dell'America, non senso. Però c'è quel seme, diciamo, del primo principio di autodifesa che potrebbe essere quello: io non ti dico un cazzo finché non ho qualcuno che sia in grado perlomeno di difendere le mie stanze e la mia posizione. Tutto qua. Era un cameo carino. Mi è piaciuto. Non lo conoscevo, grazie Miranda, grazie Nina, mi è piaciuto tanto. Prego, io rimando invece alla trasmissione di Fuoco alle Polveri, perché parlano in maniera dettagliata anche con dei testimoni che telefonicamente raccontano quello che è successo venerdì scorso in stazione, perché poi sì, sui giornali terribile. È stata raccontata in una maniera ridicola. E allora vi rimando alla puntata di lunedì 4 marzo. di Fuoco alle Polveri, proprio per riascoltare un po', insomma, hanno rielaborato un po' tutto quello che è successo, i dati che sono usciti sui giornali, interessantissimo. Sul web trovate delle immagini che sono effettivamente agghiaccianti e penso parlino da sole. Gente allontanata, telefoni spaccati. Con cosa chiudiamo noi? Perché siamo alle strette, se no Toerz ci sgrida. Un pezzo che parla di Bergamo. Perché di Bergamo? Perché visto che siamo in tema Bossi, polizia, spari e quant'altro, ci abbiamo messo dentro anche quello che è successo ai tifosi dell'Atalanta. Per quanto io non sia un'appassionata di calcio, però dove gli sbirri agiscono male è sempre chiaro ricordarselo. Bene, quindi allora un omaggio a Bergamo, per quanto sia una città molto strana, però è signor Kappa, e quindi con un altro suo amico Willy Valanga, e allora ci siamo sentite via di fare questo. Per chiudere la nostra trasmissione, rimandarci a giovedì prossimo in diretta, mentre con il nuovo palinsesto ci riascolterete, noi no, perché non siamo... noi no? No. Ma noi non ci saremo. Noi non ci ascolteremo. Ci riascolterete in replica il sabato e la domenica, rispettivamente alle 18 e alle 15. Ciao, ciao. Ciao, vi rimandiamo a giovedì prossimo. Baci e abbracci. Baci e abbracci, ciao. La sua luce, la voce che ne fa cornice, l'ora più tranquilla, la luce oscilla, il buio da respiro ad ogni stella, il cielo della fara, le strade giù in pianura, viste dalle mura, i lampioni gialli, Bergamo dall'alto dei suoi colli, i vizi tra le ombre dei palazzi, i mille pregiudizi, la gente che fa i lotti nei parchetti, i gruppi più compatti e quelli meno stretti, le chiese, gli sbirri e le perquise, le condizioni pese tra i rumori delle case, piazza Matteotti di mattina quanto è strana. La bellezza effimera di una città puttana, la fontana in piazza vecchia, che avente la sua spocchia si specchia nell'alba che la rende scialba, ma quando il sole salza la riscalda, si scalda nel tramonto, si scalda in un tramonto senza pari né confronto. Bergamo, visi che emergono qui, targati BG, mi appartengono gli anni dei gradoni, quelli nell'Ussana, il basket nei campetti il fine settimana, la fara, la rocca, il roccolino, l'angolone, l'obelisco senza recinzione, i colli, il confluire di tre valli, Dessura, Dessota, sempre quando ne parli, Casoncelli, Polenta, formaggi di Baita, neve dell'85, mura, città alta, l'alta densità di gente, il niente, umiltà che ci salva come un salvagente, la pianura, la zona dei laghi, pipe a terra, da queste parti siamo draghi, l'Atalanta, squadra del cuore, la provincia fa saltar fuori il valore, Bergamo, Bergamo, Bergamo, Bergamo, Bergamo, Bergamo, oh oh, Bergamo, Bergamo, Bergamo, Bergamo, Bergamo, Bergamo, oh oh, Bergamo, Bergamo. La parola d'ordine è resistere, tatuata dentro alle mie viscere, non è questione di perdere o vincere, ma solo e solamente di resistere, resistere,